A crescere in Brasile sono più di 8.000, in Cile sono rimasti stabili, sta funzionando pare la quarantena perché non ci sono stati grandi cambi. Però appunto la verità è che essendo tutto bloccato già da prima che esplodesse, già questi numeri sono abbastanza i numeri dell'esplosione di quando i governi non si stavano montando. Quindi diciamo che da qua in poi. No, no, non voglio dire che va crescendo, però diciamo che sono sfiducioso del fatto che in nessun paese in questo momento sta esplodendo. Sta essendo problematico, però non sta esplodendo con l'idea che abbiamo di esplosione della pandemia in Italia. Sì, certo, diciamo che avendo bloccato tutto prima che esplodesse in maniera conclamata come è stato qua, magari si riesce a Sì. limitare un po'. E poi soprattutto appunto c'è anche quel fattore che dicevamo l'altra volta, che quindi anche quei posti, anche quei grandi centri urbanizzati che ci sono di per sé, sono molto distanti tra di loro, diciamo. Quindi sì, Cordoba è una città gigantesca, Buenos Aires è una città gigantesca, però in mezzo ci sono chilometri e chilometri di campagna vuota. Quindi se si riesce a bloccare l'area, Certo, diciamo, di esplosione, ho è più capito. Quindi facile. diciamo che non si è vista nell'ultima settimana un grande peggioramento come ad esempio è stato negli Stati Uniti che. Esatto, diciamo che qua in Sud America non si parla per ora di situazioni estreme, a parte questa cosa qua dell'Ecuador, che però sto leggendo questa mattina, quindi deve essere una cosa che è successa in questi giorni, Sì, cioè sì, ieri. sì. Non mi sembra che, diciamo, l'attenzione da un punto di vista della tragicità del virus in sé è più per l'Europa e gli Stati Uniti. Ok, Sembra. allora io ti proporrei questa cosa, Melmo. Tu Sì. ci hai fatto avere un po' di tracce musicali da sentire durante Sì. questa trasmissione. Io ti direi di sceglierne una di quelle che ci hai mandato e magari la mandiamo ed è il modo per introdurre L'argomento. all'approfondimento di oggi. Allora, aspetta che mi riguardo quali ti ho mandato. No, secondo me, allora, intanto faccio secondo una presentazione velocissima di quello che è per una questione di che se no non si capisce la canzone, perché è una roba strana questa che andiamo ascoltare. Questa è la murga uruguagia, in verità. Che sono sostanzialmente quelli che mando sono degli spezzoni di spettacoli teatrali. E quindi per questo sono dei cori cantati con delle parti anche dialogate di spettacoli teatrali che fanno satira politica, satira sociale di vario tipo. Insomma, una cosa tipica del carnevale di qua, c'è un'importanza molto forte a livello di cultura popolare, da sempre, che mi sembra che te l'ho mandata, no? La prima che ti ho mandato. Questa traccia ce l'hanno anche i nostri amici dalla regia. Ah, ricordiamo che noi siamo in collegamento telematico, quindi abbiamo il nostro compagno e amico Guglielmo, che sta nella regia della radio, mentre noi due siamo ognuno nella nostra casina, nel rispettivo continente Presente l'ottimo e con Moise per rispettivo fuso segnalare orario. Potresti l'ottimo ripetere al volo il titolo? spero che sia quella corretta Agarrate Catalina Perfetto. Violencia sta già andando la riproviamo No. dall'inizio No. adesso così la Beh, sentite perfetto, andiamo questa, vai. la violencia no es más común de lo que la gente común piensa que es la violencia será que la violencia es propiedad exclusiva y en eso nos quedamos tranquilos del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente castigado y sumergido, o será que la violencia está desde antes instalada ya en todos nosotros como una semilla latente y expectante. Un conductor, por ejemplo, se toma a golpes de puño sin mucha razón aparente y brutalmente con un peatón en cualquiera de nuestras avenidas. La policía, por ejemplo, tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota formada por nenes bien golpea salvajemente a un compañero. Otro comerciante es brutalmente asesinado. Muere otra mujer víctima de la violencia doméstica, a quien habría hecho tres denuncias. Vecinos armados y temerosos de cualquiera de nuestros arrabales disparan y abaten a dos menores, quienes presuntamente serían conocidos delincuentes y serían consumidores. vamos a hablar de la violencia desde la violencia. Entonces advertimos a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podrá herir la sensibilidad de algunos de los aquí presentes, que nos sabrán disculpar, pero estamos hablando de la violencia. Mi sentite? Allora, okay. Siamo tornati in diretta. Ci con Memmo e Cesa. Adesso ammutiamo la musica così allora, vi si sente meglio. Vi spiego un secondo cos'era, perché poteva sembrare sembra molto strano, ovviamente, per una persona che non sa cosa sia. Allora, questa che avete sentito si chiamava, è un hamburger, si chiama Garrate Catalina, molto famosa, ha vinto moltissimi concorsi negli ultimi anni. Come funziona? Partiamo dall'inizio. Le hamburger sono dei cori composti tra 13 e 17 persone. Possono essere, diciamo, di vario tipo, lo scolastico, può essere una murga di una squadra di basket. Ma la murga, quando tu dici una murga, tu intendi come se fosse una traccia? Come no, noi no, si dice no, una traccia? Ecco, posso intendere due cose. Posso intendere il genere, la murga, il genere, a dire per esempio, andiamo, sarebbe bello andare a vedere una murga, ci voglio andare a vedere una murga, o se no una murga è il gruppo, sostanzialmente. Ok. È il gruppo, e ogni anno, ogni murga, ogni gruppo, prepara uno spettacolo nuovo, che parla ovviamente di attualità, fa satira politica, satira sociale, ovviamente... La cosa che è, diciamo, importante, è che è uno spettacolo lungo, uno spettacolo di 45 minuti, 50 minuti, che ha una sua struttura fissa, c'ha un saluto, c'ha una parte all'inizio che si chiamano, c'ha una serie di couplet, si chiamano, per esempio questo era un couplet dove si trattano degli argomenti. In questo argomento, per esempio, si parlava del tema della violenza. Era all'interno di uno spettacolo che si chiamava Gente Comune, Gente Comune, e parlava di tutti gli atteggiamenti che la gente comune ha. Quindi si parlava, per esempio, della gente che guarda il calcio, della violenza, della gente che... E poi si arrivava a parlare, no, alla politica, alla... non so, alla... il fatto, per esempio, della... di fare complimenti per strada. Mi ricordo c'è una parte qui che è tutta sul fatto che di questa relazione d'amore tra due persone, un racconto di questa relazione d'amore che poi diventa una roba ossessiva con lui che la va a prendere al lavoro, che le fa trovare i cioccolatini al lavoro, che la vuole accompagnare a casa, che poi quando lei gli dice che no inizia a insistere, e quindi insomma che tratta argomenti della vita di tutti i giorni. Ok. È un po' come stereotipo. Vai, scusami. Ogni anno si inventano, quello che cambia ogni anno sono ovviamente gli argomenti e le canzoni, che però possono essere appunto più, ci sono murghe chiaramente più politiche, magari murghe legate ai sindacati, murghe che sono sponsorizzate dai sindacati, dai collettivi, che sono molto politiche, fino anche a fare gli inni dei partiti durante le elezioni, molte volte sono murghe. Ok. E altre che invece sono più cazzare, che a me mi incantano, fanno più giochi di parole, più, okay. Più demenziale. Demenziale. Ho due domande da farti. La prima è, ma sono, cioè, in questi 45 minuti è il testo delle murghe, sono scritti oppure è un po' improvvisato? E la seconda domanda è, ogni anno il tema è fissato all'inizio della questa competizione oppure ogni murga sceglie a sé il tema? No, ogni murga sceglie a sé, okay. Ogni murga autonoma scrive il suo testo, può essere collettivamente o c'hanno una persona incaricata che le scrive, perché poi io adesso lo racconto quello che è il fenomeno popolare della murga. La verità è che si è sviluppato anche un business dietro tutto questo, ovviamente, e soprattutto negli ultimi anni, dove attorno al carnevale hanno iniziato a girare un po' di soldi. Ovviamente chi vince il carnevale vince un po' di soldi, oltre che già la candidatura al carnevale dopo, che è una serie di eventi, perché comunque sia vince il carnevale, magari certo. Ti chiamano al concerto che fanno lì per andare a suonare. E, i testi sono preparati, ovviamente, dei couplet, delle parti cantate, tutto questo sono preparati. Però preparati può voler dire preparati il giorno prima. Per cui, per esempio, questo carnevale, per esempio, è stato a cavallo delle elezioni. Quindi, sostanzialmente, quando uno si prepara il testo per un anno, però ovviamente poi se c'è un evento come le elezioni due mesi prima, a seconda di quell'evento, buona parte del tuo spettacolo, se ci metti dentro qualcosa di politico, cambierà, sì, a seconda certo. Di che vince uno, che vince l'altro. Quindi molte murghe in verità cambiano, a volte se succede qualcosa di... non mi ricordo cosa era successo, però succede qualcosa di importante o comunque che gli viene l'idea di mettercelo dentro, a volte cambiano anche all'interno del carnevale, che il primo giorno fanno uno spettacolo e magari l'ultimo giorno ci mettono dentro delle aggiunte per delle cose che sono successe nell'arco del mese. Comunque il carnevale dura 40 giorni. Okay. E diciamo appunto sono preparati, però c'è anche una buona parte di improvvisazione, perché comunque sia sono, diciamo, il concorso si fa sui teatri, però buona parte dei tablados si chiamano, che sono i palchi che sono in giro per tutto l'Uruguay, soprattutto a Montevideo, ma in tutto l'Uruguay, e molte volte sono piccolini, molte volte sono come noi ci possiamo immaginare lo spettacolino che fanno per i bambini in spiaggia d'estate, e quindi comunque c'è un sacco di relazione anche con il pubblico, quindi magari loro stanno facendo lo spettacolo, passa il bambino e fanno la battuta, prendono in giro un po' il bambino, no, cioè, c'è un sacco, c'è molta improvvisazione da quel punto di vista. E diciamo che che storicamente la murga ha avuto, inizialmente era una questione di, era più battute, satira, però non particolarmente impegnata, non aveva una connotazione di critica politica, una connotazione di presa in giro, bonaria e giocosa. Dagli anni 70, come dagli anni 60, 70, dal 69 pare che c'è quella che si chiama la prima murga, che era, la chiamava la Soverana, che nasce questa murga, la Soverana, che è la sovrana, sì, vuol dire, che inizia a mettere critica politica forte, proprio a parlare di proletariato, di classe ovrera, di... E da lì iniziano tutta una ondata, ovviamente come tutto, no? Gli anni 60, 70, si radicalizza in generale il mondo anche artistico, intellettuale, e quindi, diciamo, smette di essere una cosa fatta per i bambini a carnevale, inizia a essere una questione anche di critica politica, fino ad arrivare anche durante la dittatura ad alcuni che sono dovuti scappare. E... niente. Purtroppo, appunto, molte murghe sono anche state molto represse, e molto hanno dovuto scappare, addirittura alcune in Svezia. Insomma, c'è una storia abbastanza pesante. Mentre una seconda traccia, adesso con questa introduzione, quella Los Inadaptados. Ok. Vuoi darci brevemente una descrizione di che anno è, di quale musica l'ha fatta? Allora, vuoi far godere così, diciamo, spontaneamente? Esatto, ascoltiamola e poi dopo ve la spiego, perché, diciamo, questa è una murga molto legata al sindacato, quindi è una murga molto politica. Ok. Quindi per chi capisce lo spagnolo dentro ci potrà leggere chiaramente parte della critica. Dopo, se in caso comunque la spiego, vado a cercare l'anno. Ok, ripeti il titolo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Il titolo del brano è Los Inadaptados de Siempre. La murga è La Mojigata. Allora, okay. Sperando... godiamocela allora. Sperando di aver azzeccato la canzone, la facciamo partire, scelta da Melmo d'Accesa, buon ascolto. Vittoria! Tossico! Allora, dobbiamo chiedervi scusa, ma la regia non è così ferrata come poteva sembrare e non avevo alzato il volume della traccia. Ecco a voi l'ascolto. Buon ascolto. Ciao. Somos los inadaptados de siempre. No tiramos botella ni rompemos los vidrios, pero somos los inadaptados de siempre. Siempre. Los que estamos en todos los medios. Siempre. Los que estamos en todas las radios. Porque somos los dueños de las radios. Porque somos los dueños. Por eso es que estamos en todos los medios, siempre inadaptados de siempre, siempre, siempre libre, siempre libre, siempre. Ayer siempre libres, hoy siempre libre, mañana en libros de historia. Tus hijos estudiarán mi historia, mi cara inadaptada en los libros de tus hijos y en la tapa de su charona. Siempre vivirán en la calle con mi nombre. De mi hermano y mi cuñado, en el barrio de mi abuelo, ¡viva! El viejo inadaptado, el viejo inadaptado, el viejo inadaptado, inadaptado. El primer inadaptado de siempre. No tiramos botellas ni rompemos los vidrios, pero somos los inadaptados de siempre. Siempre. Los que estamos en todos los medios. Siempre. Los que estamos en todas las radios. Porque somos los dueños de las radios. Porque somos los dueños de todos los medios. La radio, los dueños de siempre. Siempre. Inadaptados de siempre. Medio sacahuiti, medio arrastrado. Por eso es que estamos en todos los medios. Siempre. Inadaptado de siempre, siempre, siempre libre, siempre libre, siempre. Ayer siempre libres, hoy siempre libre, mañana en libros de historia. Tus hijos estudiarán mi historia, mi cara inadaptada en los libros de tus hijos y en la tapa de su charona. Siempre vivirán en la calle con mi nombre, entre mi hermano y mi cuñado, en el barrio de mi abuelo. ¡Viva! Mentre finisce il riascolto di questa fantastica traccia, Los Inadaptos de Siempre in Vivo, una traccia di una murga di cui ci ha parlato Melmo poco fa, Adesso lascio di nuovo il collegamento ai nostri fantastici corrispondenti che continueranno nella loro trattazione meravigliosa. Buon ascolto. Bene, eccoci qua. Eccoci qua. Quindi questa era una murga, dicevi, sponsorizzata dal sindacato. Quindi questa è la murga, storicamente, questo anche molte murghe, come dicevo prima, no? Che negli ultimi anni ovviamente è anche un business. La murga non tutti lo fanno con lo spirito, la critica. Ci sono anche molte murghe che lo fanno proprio per vincere i soldi, okay. il carnevale. E quindi insomma, diciamo anche perché non vinci se il tuo spettacolo è il più bello musicalmente o che prende di più. Vinci se sei il più, diciamo, ci sono dei canoni che partono dal costume, dalle tempistiche, le proporzioni tra le varie parti dello spettacolo, da quando sali a quando scendi, delle cose tradizionali, per cui una murga che non parla di niente di divertente, ma può anche arrivare a vincere se fa tutto perfetto, se canta benissimo, se ha dei costumi spettacolari. Questa murga in particolare, la Mochegata, è una murga che da sempre è molto legata al movimento. La murga dei sindacati principalmente, una delle poche murghe che non è di proprietà privata, a differenza di molte altre. Niente, quindi questo tema in particolare era di uno spettacolo del 2010, quindi dopo i primi 5 anni del governo di sinistra. E il testo, poi mi sembra, perché poi le intenzioni, diciamo, non le conosco, però mi sembra che il testo parlasse un po' di quelli che quelli di sinistra, così, erano quelli che tiravano le bottiglie, che rompevano le cose per strada, gli inadattati, per quello che era il sistema. È stato il cambio di sistema nel 2010, quelli che erano gli inadattati erano i proprietari delle radio, i proprietari delle televisioni, i grandi proprietari terrieri. E quindi faceva questa gioca e dice: sì, siamo i disadattati, siamo le cose, siamo ricchissimi, cioè abbiamo le nostre case, come se fossero gli emarginati per questo. E, la murga questa, insieme a quella che abbiamo sentito prima, sono due di quelle che si chiamano le nuove generazioni sostanzialmente di murga, la joven. Prima c'era un altro, cioè diciamo, sono quelle nate negli ultimi 20 anni, perché poi le murghe sono, alcune hanno quasi un secolo, le prime, perché poi si è iniziata a fare a fine 800, e continuano, diciamo, cambiano i membri, continua a rimanere il nome, chiaramente essendo un gruppo di 13, come la Rap Caverna, no? Non so come dire, certo, sì, può andare uno, arriva un altro, se ne arriva uno, andare un altro, chi lo sa quanto va avanti la cosa, può darsi che a un certo punto non ci sarà più nessuno di quelli che l'hanno iniziata certo, e niente, una delle murghe più, secondo me, emblematiche di quello che è la questione anche di politica, l'impegno durante la dittatura e il continuo impegno, e la Falta e Resto, che è la murga del terzo brano che vi ho mandato, che è una murga che ha iniziato a suonare nel periodo della dittatura. Ok. Quando in Uruguay, l'unico paese durante la dittatura del Plan Condor che non ha sospeso il carnevale. Mentre in Brasile, in Argentina sì, in Uruguay no, e quindi comunque le murghe potevano, comunque ovviamente con una censura previa da parte della giunta, però potevano andare a carnevale presentare. E la Falta aveva trovato questo, diciamo, questo modo, aveva questa sua piccola genialità di scrivere dei testi, esatto, che alludevano ma non si capiva, però tutti nel pubblico lo capivano, però se tu lo leggevi a freddo non coglievi. Certo. E per esempio c'è questo brano molto famoso che si chiama Della Paloma, che non te l'ho mandato perché è molto lungo, è lento, è pesante per uno che non capisce la murga. Però esattamente questo, uno che parla di una colomba che voleva volare ma c'aveva le ali sporche di catrano. Ed è tutta una canzone, okay, che parla di questo, che però evidentemente una, una metafora, no? Sì, certo. E bueno, e loro continuano a suonare, e per esempio negli ultimi anni ci hanno avuto è una murga privata questa da sempre, c'è un proprietario del nome Falta Iresto, e loro però per questo, per esempio, in molte volte con critica con la persona che detiene i diritti del nome, hanno deciso di non presentarsi al carnevale come nome, e di fare dei giri, li chiamano illegal tour, e fare dei loro spettacoli in giro per l'Uruguay, per l'Argentina, per non dover chiedere i diritti di poter partecipare al carnevale e poter fare il loro spettacolo, che a volte sono molto, molto critici, molto impegnati, molto schiettamente. Okay, quindi praticamente questa murga ha un proprietario che è, diciamo, tutore legale... Esatto, del nome, il proprietario legale del nome. Però poi i musicisti, anche per andare contro al fatto di dover dare dei soldi a questo tipo qua, non partecipano al carnevale, si fanno... No, non credo che siano, credo che sia più che altro una questione del fatto che il proprietario non gli ha permesso, in verità, nell'ultimo anno, l'anno scorso, di partecipare al carnevale con lo spettacolo che avevano fatto, perché l'ha ritenuto troppo... estrema. Ok. E quindi loro hanno deciso di fare l'illegal tour, l'avevano chiamato, cioè di fare un loro giro anche in Argentina, sono andati tra l'altro a fare il loro spettacolo. Ma magari ci sentiamo allora questa terza traccia che ci hai mandato? Sì, questa terza traccia è un saluto, quindi vuol dire che è un saluto dell'82, quindi ancora del periodo della dittatura, ed è l'ultima traccia dello spettacolo. Quindi è un saluto al pubblico che si fa, e l'ultima parte si vedrà che è una parte che si ripete, è tipo un ritornello che si ripete, e quella parte è la bacada, in quella parte i musicisti scendono, continuano a cantare questa parte, continuano a cantarla, e intanto si vanno dal teatro, attraversano il pubblico e se ne vanno, la gente si alza in piedi, balla un po' con loro, li accompagna fuori, e se ne vanno continuando a cantare. Ok, quindi il titolo della murga, della traccia... dicen que la murga es. Dicen que la murga es. Guglielmo, compagno. Sono Guglielmo qui. Dalla regia, se puoi mandare la canzone. Sono qui, vi sento, questa volta non sbaglierò più, cioè metterò alti volumi nella maniera corretta e farò partire il brano, si spera, nella maniera giusta. Eccoci qua, sta iniziando, buon ascolto a tutti e a tutte. Godiamocelo. Ni mensaje ni frases rimbombantes, solo decir que todo canta siempre. La voz que está presente y la distante, y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida rumbo a la madrugada, caminando. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande y elocuente. Hay que lo cantamos que no, hay que lo cantamos que no, ni muy afinados ni muy afiatados, pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. El canto de Eccoci tornati, finalmente i nostri mezzi eccoci tecnici di nuovo qua. Ci hanno permesso di ritornare al telefono con Melmo dall'Uruguay e con Cesa da casa sua. E quindi niente, adesso lascio di nuovo la palla mentre mi viene suggerita l'ultima traccia di questa fantastica puntata delle connessioni dal nuovo mondo. Prego, lascio la palla a loro perché io dico cose stupide. Allora, siamo di nuovo qua, noi siamo con Zoom, quindi io e il Melmo riusciamo anche a vederci in video. Voi non lo vedete, ma lui si sta denudando. No, si sta bevendo un mate, che è, diciamo, la bevanda tradizionale dell'Uruguay e dell'Argentina, e niente, in perfetto stile uruguayo. Lo stile rioplattense. Mate della mattina. Esatto. Niente, prima Melmo, tu parlavi delle murghe che ci sono anche in Argentina, cioè quindi non è una cosa solo uruguagia. Allora, in verità la murga originariamente arriva dagli immigrati spagnoli, quindi gli immigrati di... La murga è una roba tradizionale di Cadice, di Cadiz, in Spagna. Ok. Però lì è una cosa molto vecchia, non so come dire, è rimasta un po' come il canto dell'opera lirica. Diciamo. Okay. E quando sono arrivati qui, quando hanno iniziato a popolarsi l'Uruguay di immigrati europei, soprattutto spagnoli e italiani, ci sono iniziati ad essere dei due principali gruppi, appunto le murghe di Cadice, gli spagnoli che cantavano, e poi il gruppo italiano del Bel Canto, che erano italiani che cantavano opera lirica anche loro. E poi da lì si è iniziato a sviluppare, quindi hanno iniziato a cantare cose di attualità, un po' cambiare i testi di canzoni famose. Questa è una roba anche molto tipica della murga. Molte volte nella murga si usano canzoni che già esistono, ritmi di altre canzoni, e si prendono in giro delle cose su quel ritmo. Per esempio, la Raffaella Carrà, Com'è bello far l'amore da Trieste giù, che qua in Sud America comunque è una hit. Anche in Italia è una hit, vorrei... anche in Italia, però qui è una hit è tipo sempre eterna, è un po' tipo le bionde trecce e gli occhi azzurri. Okay. E niente, e un sacco di murghe fanno, ricamano sopra la melodia, è un po' come quelle canzoni di Elio che faceva, esattamente, ci sono, io è una cosa che ho trovato molto, è la cosa, okay, in certe cose la cosa più simile che ho trovato agli esseri tese sono le murghe. Per esempio, ti faccio un esempio, c'è la c'è una canzone molto famosa di qui che si chiama La Calle Durazno, che è La Calle Durazno, la via Durazno, che è una via, e hanno fatto quest'anno una murga, ha rifatto questa canzone facendo La Calle Durango, che è La Calle, è il nuovo presidente dell'Uruguay, si chiama La Calle, quindi La Calle, okay. E Durango è duro come di cocaina. Ok. Un vizio, okay, quindi sarebbe il presidente in bamba praticamente. Esatto, no, è proprio La Calle, il presidente duro, chiaro. Quindi fanno rifatto tutta la canzone, invece di fare La Calle Durante, okay, La Calle Durango. E rifanno tutta la canzone cambiando il testo, quindi, per esempio. Vai. La murga argentina invece ha preso, è più simile a quello che qua sono i candombe. Quindi qua ci sono anche, assieme alla murga, ci sono dei cortei nei quartieri, dei gruppi che suonano tamburi tradizionali della comunità afrodiscendente. La murga argentina, diciamo che sono più che altro questo, cortei di tamburi con travestimenti molto da murga, movimenti, okay, da murghista, diciamo, okay, però non c'è la parte cantata, non sono spettacoli teatrali lunghi, non si fa teatro, non si fa per strada camminando durante i cortei, per esempio durante le marce. Per esempio, ho visto che in, okay, Italia... un'amica che Livia che viveva con me qui in Uruguay, a Roma, è entrata a far parte di una murga a Roma, Argentina, e fanno questo, fanno ai cortei a Roma, partecipano, okay, suonando. In Argentina, tra l'altro, per quello che mi sembra di capire, e anche in Italia in qualche modo è arrivata più attraverso, mi sembra, la radice argentina che Uruguay, cioè, ovviamente, più piccolina. È anche molto legato al mondo, al femminismo, in qualche modo, come che sono, hanno una predominanza molto di molti movimenti femministi, hanno una loro murga a Buenos Aires, okay. Insomma, okay. Certo. No, non c'entrano niente paradossalmente, sono così vicini Argentina Uruguay in tutto, però paradossalmente murga attraversi il Rio della Plata vuol dire due cose completamente diverse. Ok, cioè quindi praticamente in Uruguay è una cosa più non relegata al carnevale, ma che è molto più in voga durante il carnevale ed è uno spettacolo musicale, mentre sì. È una cosa più militante in Argentina quasi. Qua è un genere musicale. Okay. Qua è un genere musicale e teatrale e artistico, oltre alle implicazioni sociali, però da un punto di vista di artistico, diciamo, è un genere musicale. È come se fosse, è una scena, tra l'altro. È una scena anche parecchio divertente, perché poi le persone che partecipano alle murghe sono persone con una testa incredibile, perché comunque davvero io nelle murghe è una delle cose che a me sono felicissimo di fare anche questo programma, perché io una delle cose che è molto difficile cercare di far capire la murga a una persona che non, sì, che non partecipa, non la conosce da dentro dell'Uruguay, perché è una roba molto legata con la, molto idiosincratica con la identità uruguascia, però è un genere musicale che davvero ha dentro, c'ha, nei testi c'ha filosofia, politica, psicologia, c'ha davvero raggiunge dei livelli anche di discussione, di analisi, di immagini veramente, veramente, veramente molto alti. Questa è una roba che a me mi incanta, perché qui vedi, per esempio, essendo anche una cosa di barrio, molto di quartiere, qui vedi ragazzini, gente davvero di, non so come dire, che da noi crescerebbero a Fedez e basta, che canta davvero, non è che canta con voce, canta baritono, canta basso, canta alto, canta acuto, sì, che hanno dei testi, non so come dire, si ride, ma non si ride di cose banali, non so come dire, anche sì, anche la Cascia Durango è una battuta del cazzo. È una battuta, è come fare tutta una canzone su Berlusconi puttaniere, non so come dire, che ovviamente non è l'analisi politica, sì, sì. Però comunque sia non è nemmeno la scoreggia di Massimo Boldi, capito, e Natale, questo dico. E io per esempio quando vedo per esempio che veramente il fatto che nei quartieri ci sia questi fenomeni culturali comunque sia validi, che non sono appunto che non è semplicemente, non so, perché io vedo comunque chiaramente vedo il valore culturale di molte cose anche che non devono per forza avere un contenuto direttamente di satira politica o che ne so, però molte cose diciamo fa bene il fatto che questo ti faccia pensare, ogni anno la murga cambia il testo, quindi cosa vuol dire? Che una murga non può diventare famosa con una canzone continuando a fare quella, una murga ogni anno deve scrivere un nuovo testo, ogni anno deve aggiornarsi su quello che succede, ogni anno deve inventarsi qualcosa di nuovo per stupire, per far ridere, un nuovo tipo di battuta, niente, questo. No, una cosa che mi è venuta in mente mentre raccontavi di questa cosa di realtà più di quartiere, e insomma, sì, movimenti appunto che partono proprio dai quartieri, dai vari barrios, dai quartieri, mi veniva un po' una riflessione su quello che stiamo facendo noi nel quartiere nostro dove c'è ZAM. ZAM avrebbe una murga 200%. Cioè nel senso che noi stiamo cercando di fare delle cose per il quartiere che sono state prima di questa reclusione forzata per via del coronavirus. La cosa che di più riuscivamo a fare erano le marce, cioè diciamo nel quartiere, in mezzo alle persone del quartiere erano delle marce su ognuna su un diverso argomento, no? Ci sono stati ad esempio dei femminicidi nel quartiere di Zame, abbiamo fatto una marcia per parlare anche di questa cosa e effettivamente è stato un modo in cui siamo riusciti a interfacciarci a tante persone anche diciamo dei target che normalmente non frequentano il nostro centro sociale, anche diciamo ragazzi giovani che sono venuti con noi a fare questa cosa per il quartiere, effettivamente un aspetto così più appunto artistico, musicale, non c'è in Italia, ma secondo me in generale in Europa non c'è una cosa appunto di movimento, di attivismo politico così popolare, perché certo il rap militare per il quartiere a rapare in gruppo. La questione gruppo, è che, la questione è che noi ci abbiamo, non so come dire, la murga è una roba che è molto collettiva, e da noi la dimensione della collettività comunque sia è qualcosa appunto su cui per fortuna ci sono spazi come ZAM che ci lavorano, perché sennò sarebbe qualcosa che assolutamente è messo da parte purtroppo nella nostra cultura e nella nostra educazione, e quindi per esempio da noi ci sono i gruppi militanti, ci sono i gruppi militanti che però sono chiusi, circoscritti ai membri del gruppo in qualche modo, e in qualche modo rappresentano, giustamente, nel senso, ne siamo tutti, nel senso, siamo tutti dentro questa cosa qua, però rappresentano se stesso, non esiste. Qui la murga, la cosa è che davvero ci sono murghe che hanno un secolo, quindi questo evidentemente le membri e persone di murghe che hanno vinto il carnevale 20 anni non si sanno. Se ne sanno tre o quattro di grandi cantanti, di grandi scrittori. Diciamo che la murga trascende un po' gli individui che la trascende gli individui, esattamente. È una dimensione più collettiva. Esatto, è una esatto. Quindi non ci suoni per gloria individuale in qualche modo. Invece, giusto per cambiare discorso e alleggerire un po', parliamo di un'altra gloria uruguagia. Perché per chi non lo sapesse, gli ascoltatori e le ascoltatrici, l'Uruguay è uno dei pochi, forse l'unico, non so se è l'unico, comunque uno dei pochi paesi del mondo che ha la ganja di Stato, ovvero ha lo Stato che gestisce delle piantagioni di cannabis e gestisce la distribuzione della cannabis alla popolazione, quindi gestisce le farmacie. Una cosa che mi sono chiesto, perché praticamente quando iniziava il periodo di quarantena qui in Europa, una cosa che è successa in Olanda è stato la presa d'assalto dei coffee shop. Certo. Quindi ore e ore di file chilometriche fuori dai coffee shop, in cui le persone andavano per diciamo rifornirsi il più possibile di droghe leggere, di sostanze psicoattive per diciamo viversi meglio questa quarantena. Poi in realtà lo Stato olandese ha tolto questa chiusura forzata dei coffee shop e ha detto: "Riga, se facciamo così facciamo assembramenti fuori dai coffee shop, è controproducente, eccetera, eccetera." Mi chiedevo com'è, cioè, la situazione per i fumatori uruguagi, che diciamo da anni sono abituati ad andare in farmacia e potersi comprare la ganja piuttosto che iscriversi a un club e comprare la ganja in un club, come se la stanno vivendo qua? Qui la situazione è molto più tranquilla da quel punto di vista. Innanzitutto non c'è quella quarantena, quindi anche, non so come dire, partiamo dicendo che in verità chi la compra dallo Stato, la legge è passata nel 2013, è entrata in vigore effettivamente nel 2016, perché comunque sia una legge molto complessa, era la prima legge nel suo tipo nel mondo. E tuttora credo che sia l'unico stato al mondo, perché al tempo era l'unico paese al mondo ad aver completamente legalizzato, in verità, la marijuana, che era diverso da come era in Olanda, per esempio, perché in Olanda sono privati che lo vendono nei negozi, e qui sta la differenza anche dal punto di vista del contagio. Qui, per esempio, la maggior parte della gente coltiva innanzitutto, quindi è periodo di raccolta, la maggior parte della gente ha bellissime piante in fiore, e anche se potesse non uscirebbe di casa. Ok, potrebbe stare a posto senza uscire di casa, diciamo. Okay. E le farmacie chiaramente rimangono, il lavoro agricolo, il settore agricolo ovviamente non si è fermato, anche perché è un settore a basso contagio comunque, basso tasso di contagio, perché ci lavora poca gente, in zone molto isolate, e gente che è lì già da tutta l'estate a fare la stagione, quindi che non è che ha viaggiato negli ultimi anni, negli ultimi mesi. i club, per esempio, non so, quello che facciamo, il club con cui lavoro, per esempio, abbiamo evitato di fare, prima c'era una consegna a settimana. Il club funziona che tu hai a disposizione 10, puoi consegnare agli iscritti al club 10 grammi a settimana, fino a 40 grammi al mese, gestendoli come vuoi nel club. Nella farmacia 10 a settimana. Okay. Nel club puoi dare anche 40 in una botta, ed è quello che stiamo facendo adesso. Stiamo organizzandoci, per cui sappiamo che 5 veniamo una volta al mese, due volte al mese, però chi viene ritira già tutto il mese, così non torna più. Ci facciamo dire l'orario esatto in cui sta arrivando, quello che vuole, gli facciamo preparare i soldi giusti, quando arriva gli diamo. E questo funziona a tutta distanza. Prima, per esempio, Claro Club, prima erano un salottino dove la gente entrava, si poteva stare dentro. Sì. E di più, bisognava farlo dentro, per legge. Per legge tu devi fare, è tutta una questione che devi fare a porte chiuse, nello stesso posto dove coltivi. Adesso no, ovviamente adesso stiamo facendo tutta la porta, dalle inferriate. Però no, fine, nessuno prende d'assalto niente. Per ora, a parte il ministero, purtroppo, che è quello che dicevo prima, per la gente che non riesce a ricevere gli aiuti. Va bene, Ser Melmiter, io ti direi questa cosa, possiamo far partire la canzone finale, quindi quella di chiusura, e dare appuntamento a tutto quello che ci stanno ascoltando a settimana prossima. Esatto, la canzone questa è la stessa che abbiamo messo la settimana scorsa, e appunto, ripeto, la presentazione è una murga, è una parte dello spettacolo di quest'anno, quindi che il primo spettacolo, il primo carnevale col nuovo governo, il primo governo di destra da 20 anni in Uruguay. Ok. E quindi parla di questo, una canzone che parla di come quello che abbiamo ottenuto in questi 15 anni rimarrà per sempre, non per i prossimi 5 anni. E questo è un po' il senso della canzone. Ok. Allora salutiamo tutti e tutte e auguriamo un buon fine settimana e, insomma, godetevi le vostre case, i vostri luoghi di clausura e niente, un saluto e... un saluto amici a tutto e a tutto. Allora riapro il microfono anche qui nella fantastica Milano Sud, lancio il brano, ringrazio Melmo che mi ha fatto venire in mente un sacco di belle domande da fargli sul commercio della ganja legale in Uruguay, ma settimana prossima, perché lo riacchiapperemo al telefono. Buon ascolto a tutti e tutte, grazie Melmo, ciao, ciao William, ciao. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla, si la cosa estalla, estaremos a la talla, si el costo es Caribe no tendremos cintura, daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta, listos y atentos a tus intentos, de que los sueldos no haya aumento. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. Que las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarlo en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará cerrito, que como pasó en Chile va a ser. disfunción sexual, yo me caso. La interrupción voluntaria del embarazo, cambio de género y de mi entidad, reproducción asistida, la ley trans. Y el que los ojos se cura con los médicos de Cuba, la investigación de crímenes de la dictadura. Y se arma, mira que se arma, el pueblo va y salta frente a la que te vaya mandando. Calma, pedirá calma ante la alarma, pero aquí estaremos andando. Vamos a la plaza para dar batalla, si la cosa estalla estaremos a la talla. Si se pone Caribe no tendremos cintura, daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Calma, igual hay calma. Vendrán tiempos de miedo.